Cocaina cotta in cucina, firme sui miei vestiti, non firmo sopra un verbale, non firmo su una serranda, non sono un fottuto rider, ma un cazzo di mostra a tre teste, giovane Tony, boss di PG777. Cocaina cotta in cucina, firme sui miei vestiti, non firmo sopra un verbale, non firmo su una serranda, non sono un fottuto rider, ma un cazzo di mostra a tre teste, giovane Tony, boss di PG777. Sciarpa, quadri, Burberry, cashmere, vesto Montgomery, comfort, prima di tutto pensi, vendo petrolio, soldi in tasca come un arabo, pago una troia in pubblico, il tuo incasso del disco lo guadagno in 5 minuti, se pago compro te la tua donna in 5 minuti, pesce crudo, trasformo pacchi in 5 minuti, vanno e poi vengono come puttane in 5 minuti, non mi fermo, lei mi ferma, vuole andare a Roma centro, sul mio collo ho un impero, sul tuo collo misero argento, e vai sul serio, soldi in banca come fossi un ebreo, 777 gang nel gioco come Neymar e Messi, doppio passo, siamo alieni da un altro pianeta, mi hanno dato spazio.